Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. A volte le scaramanzie funzionano. È bastato ricordare ieri lo score delle italiane in Champions League dell'anno solare, e cioè primavera più questo inizio di autunno, ammesso che si possa chiamare autunno quest'estate piena, che era esattamente di una vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte, quindi insomma non certamente da potenza calcistica, e sono arrivate 2 vittorie su 2 che, salvo cataclismi stasera, dovrebbero diventare 3 su 3 con il Milan. L'ultimo unplay-in, sperando sempre appunto che le scaramanzie funzionino, ma poi fino a un certo punto, l'ultimo unplay-in italiano risale allo scorso anno, alla 5ª giornata dei gironi, 23-24 novembre, quando il Milan vinse 2-0 ad Auxerre, la Roma batté il Bayern di Monaco per 3-2 e l'Inter batté a sua volta il Twente per 1-0. Quindi una serata nettamente positiva per una volta, che comincerei a rivivere da Napoli, in particolare con la voce di uno dei protagonisti principali, e cioè di Hamsik. Abbiamo dimostrato in campo di dimostrare dei punti, allora siamo sulla buona strada, 4 punti sono ottimi, però non ci dobbiamo montare testa, ancora non è niente, mancano ancora 4 partite difficili. Siamo abituati piano piano, l'anno scorso abbiamo giocato Europa League, siamo andati fuori con Villarreal, quest'anno ci togliamo soddisfazioni in Champions League, speriamo, però come ho detto è ancora dura dire se andiamo avanti o no. Sì, anche ad ascoltarlo sembra di vederlo, cioè sembra di vedere gli occhialini, no? Un po' da intellettuale, perché ragiona, parla e ragiona proprio così, come lo si vede Hamsik. Ce n'è una, i protagonisti del Napoli di sera sono tanti, ma insomma uno che si è subito calato, dando un diverso peso, un diverso spessore tattico, ma anche tecnico alla squadra, è certamente Ingler. Allora, sentiamo anche lui. È stata una grande vittoria perché volevamo vincere. Secondo me dobbiamo fare queste partite sempre a altissimi livelli, poi possiamo sempre migliorare tutti insieme. Secondo me, sai, in squadra siamo in ampia, perché dobbiamo cercare che giocano tutti, perché ogni partita conta, e dobbiamo allenare anche questo, anche chi entra deve essere pronto. Ma secondo me dobbiamo dare anche ogni partita il massimo per raggiungere i nostri punti. La vittoria del Napoli comporta un pedaggio, ed è un pedaggio pesante da pagare, perché le condizioni di Cavani sono pessime, nel senso che, per carità, Caviglia non ha nulla di rotto, però ha una distorsione di primo grado. Le immagini trasmesse poco fa da Sky Sport 24 non lasciano margini a speranze di recupero per sabato contro l'Inter. Cavani ha un gambaletto protettivo, ma insomma al di là di quello non l'inquadratura mostrava un tentativo di cammino, ma in realtà l'impossibilità di posare, di caricare il peso sul piede a terra a tre giorni da una partita è assolutamente da escludere un recupero. Poi parleremo anche delle assenze dell'Inter o delle potenziali possibili assenze dell'Inter. Ma a proposito di Cavani, qualcuno magari comincerà a pensare a una possibile pretattica. Io sinceramente, ripeto, avendo visto le immagini, mi sentirei di escluderlo, e anzi augurerei a Cavani di tornare in piena condizione dopo la sosta, no? Felicitandosi con se stesso che una distorsione del genere gli è arrivata prima in una sosta, e quindi con più tempo per recuperare. Dicevo, si penserà alla pretattica, anche perché quella che è stata fatta su Giuseppe Rossi alla vigilia della partita è stata notevole, ecco. Sentirei proprio Peppe Rossi al termine di questa partita, in cui si è battuto con coraggio, ma insomma anche con poca collaborazione da parte dei compagni di reparto. Ho deciso di giocare, certo, perché questa è una partita molto importante per noi, contro una grande squadra, un grande stadio, quindi certo dispiace di perdere 2-0 la prima e 2-0 la seconda, cosa che capita. Credo che oggi noi poi abbiamo fatto una grande partita, specialmente nel secondo tempo, peccato che non è andata così. Non è andata così, no, per fortuna del Napoli. Poi si tratta, dato che c'era un precedente molto recente che può far da parametro, no? Anche per, cioè no, non solo per le squadre in sé, ma anche per così un piccolo check indiretto sulle squadre, sul valore reale momentaneo delle squadre italiane e spagnole. Beh, rispetto al confronto diretto di febbraio tra Napoli e Villarreal, che c'era stato in Europa League, mi pare di poter dire che il Napoli è cresciuto da allora, ma certamente è calato il Villarreal, che, come la classifica del campionato spagnolo dimostra, sin da queste prime giornate, insomma, non sembra più la squadra dello scorso anno. Passerei all'Inter e sentirei l'Inter, su cui poi ci soffermeremo con un grande ex nerazzurro che tra poco ci raggiungerà a questi microfoni e soprattutto ci spiegherà, ci aiuterà a capire come è possibile una simile metamorfosi nel giro di 7 giorni, dal martedì di Novara al martedì di Mosca. Nel frattempo sentiamo l'analisi di Ranieri. Sono tante le cose che hanno dato soddisfazione, 3 punti in classifica nella Champions, così abbiamo l'opportunità per riprendere il nostro cammino. Il gioco che la squadra ha espresso nel primo tempo, la sofferenza, l'orgoglio del secondo tempo. Io sono convinto che loro hanno ancora la voglia, la determinazione e l'orgoglio per far vedere che non sono finiti. Dove possiamo arrivare non lo so, ma insomma questa è una squadra che può dire la sua, sia a livello italiano sia a livello internazionale. Ma abbiamo parlato, rimesso dei giocatori. Io credo che Gasperini non abbia avuto il tempo, anche la fortuna, perché con tutti quegli infortuni è difficile far passare la tua idea. Io qui sono più le volte che giochiamo che ci alleniamo, per cui ho rimesso i giocatori come sapevano fare. Questo certamente, poi con l'aiuto per l'appunto di Luisito Suarez tra pochi minuti vediamo se magari c'è anche dell'altro, come qualche tifoso dell'Inter e non solo sospetta. Notizia d'agenzia di stamane, di un'ora fa, momenti di tensione questa mattina alla stazione di servizio Paganella sull'autostrada del Brennero in direzione sud per l'arrivo di 2 pullman di tifosi della squadra di calcio ceca del Viktoria Plzeň, che stasera gioca a San Siro con il Milan. Tutti questi 70 tifosi scesi dal pullman apparivano in evidente stato di alterazione alcolica, insomma erano ubriachi in poche parole, sicché sono intervenute le pattuglie della stradale. Uno dei tifosi è stato multato per aver urinato all'aperto, gli altri identificati. I pullman però sono poi ripartiti regolarmente alla volta di Milano e la stradale ha allertato i colleghi di Veneto e Lombardia, ma insomma al momento non è annunciata la loro, come dire, esclusione dalla partita, per cui dovrebbero essere regolarmente presenti allo stadio, sperando che nel frattempo un po' la lezione gli sia servita e un po' la sbronza si smaltisca anziché potenziarsi, no? Speriamo perlomeno. La vigilia di Milan Viktoria Plzeň da Seedorf. Siamo tutti consapevoli che non dobbiamo far meglio dell'anno scorso. Però comunque un club e una squadra come il Milan deve sempre puntare in alto, vuol dire cercare di arrivare in finale e di vincere la Champions. Questo deve essere l'unica cosa che abbiamo in mente, perché tutti lo possiamo fare. No, lacrime sono già asciugate, diciamo. Abbiamo fatto un buon inizio della Champions e, come ha detto il mister, dobbiamo, specialmente che giochiamo in casa, a raccogliere subito i punti per dar continuità a quello che abbiamo iniziato. E questa era la vigilia di Clarence Seedorf alla sfida di stasera del Milan, con la possibilità di, ripeto, ricentrare un plan a quasi un anno di distanza dall'ultimo ottenuto nei gironi di qualificazione alla Coppa dei Campioni. Come vi ho annunciato, anzi promesso, visto che si sta parlando di un vero grande di Spagna, riecco a noi Luisito Suarez. Buondì Luisito. Buondì, buongiorno. Senti, grande di Spagna, insomma, intanto a pieno titolo, perché ricordo agli ascoltatori che c'è un solo giocatore nato in Spagna che sinora abbia vinto il pallone d'oro e questo giocatore si chiama Luisito Suarez. Non mi pare che sia toccato ad altri questo onore poi, eh? Sì, sì, sì.

Tevez in due parole, ieri sera si è rifiutato di entrare ad un certo punto di Bayern Manchester City e Roberto Mancini è stato durissimo e ha detto poi in conferenza stampa, ma ha già riconfermato stamane, che con lui Tevez ha chiuso. Ora, non proprio una questione da poco, visto il valore, diciamo, commerciale di Tevez, vista lo spessore del giocatore, ma visto anche la gravità del gesto commesso ieri sera da Tevez. Tutti argomenti di cui parleremo insieme, questi e altri, dopo l'intervallo per i mercati. Prima c'è ancora tempo per un ascoltatore, Silvano, che ha chiamato da Verona. Buongiorno. Eccolo qua. Io appartengo alla categoria di pensiero del 63-64, quando la chiusura del cerchio era Suarez, Corso, Sarti, Bunis, Pacchetti. Vabbè. Gliela diamo, ecco, per buone. Va bene. Allora, perché Suarez, che è il vero allenatore interiore dell'Inter, non ha mai fatto l'allenatore dell'Inter? Perché non ha mai voluto farlo o perché nessuno gliel'ha chiesto? Perché oggi ha parlato da allenatore dell'Inter, perfetto. Sì. Eppure pensi che Luisito è stato allenatore dell'Inter e in più di un'occasione, ma non ha mai avuto fortuna. Nel 75, stagione 74-75, se non ricordo male, finì a metà classifica o poco più. E però era un Inter, insomma, di anni difficili, intendiamoci, non era certamente l'Inter di queste stagioni. Quella fu forse la vera occasione che ebbe da allenatore interista. Poi è subentrato un paio di volte, ma sempre in situazioni molto molto difficili. Nel 92, quando subentrò a Orrico, vinse 3 partite, ne pareggiò 8 e ne perse una sola, ma insomma comunque fallì l'accesso alle coppe e poi invece guidò la squadra per 2 giornate in attesa di Oxon dopo il licenziamento di Bianchi, e qui parliamo del 96. Le ha avute le sue occasioni, ma evidentemente nessuno è profeta in patria. La patria calcistica di Luisito, al di là del pallone d'oro di Barcellona di origini di carriera, è stata l'Inter, oggettivamente. Ripartiamo da un'errata corrige, perché nella puntata di ieri, a proposito del processo di Napoli, materia che maneggio con competenza relativa ma soprattutto con estremo disagio, per non dire disgusto, ho attribuito all'ex amministratore delegato della Juventus Giraudo e al suo collegio difensivo la scelta del patteggiamento anziché del giudizio abbreviato. Ora, come si usa in questi casi, mi piace scusarmene sia con l'interessato che con gli ascoltatori. Aggiornamento sulla vicenda dei pullman che arrivano da Victoria, dei pullman ciechi, non so, ubriachi a bordo sicuro, poi vediamo. Dunque, sono appena arrivati a Milano, sono stati subito fermati e controllati i 150 tifosi, perché poi la comitiva era più lunga di quello che pareva nella notizia che vi ho dato prima. La polizia ha arrestato 2 uomini, uno di 28 e uno di 30 anni, in possesso di coltelli a serramanico con lama non regolamentare. Altri 2 denunciati per avere dei fumogeni nei loro zaini. A bordo dei pullman sono stati trovati e sequestrati altri fumogeni, stecche da biliardo e un manganello telescopico. Insomma, comunque un discreto armamentario, tutti raggiunti da Daspo evidentemente, e l'unica cosa positiva è che sembra gli fosse passato il grosso della sbronza, che invece era stato rilevato stamane nel controllo sull'area di servizio sull'autostrada del Brennero. Saverio, chiamato da Pesaro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Ah sì, buongiorno. Senta, io volevo riallacciarmi al discorso di Chiellini e Buffon di ieri. Sì. Per quanto riguarda la nazionale. Ma con un blocco come il Napoli, che abbiamo visto sti giorni, che poi anche l'anno scorso ha fatto molto bene, si potrebbe iniziare a parlare di un Cannavaro, Aronica, lo stesso De Santis? Ma so, per iniziare a parlare non è mai troppo tardi. Poi al momento di scegliere magari si può ragionare. Io, se parliamo di portiere, insomma, starei dove sono. De Santis è da sempre un eccellente portiere tra i pali, insomma, magari in uscita qualcosina di meglio si può fare. È chiaro che bisogna preparare il dopo Buffon, no? Credo, in prospettiva, e penso che per Prandelli sia un problema discretamente in agenda. Però vede, con campioni di quella levatura, parlo di Buffon, Buffon, portieri, bisogna andarci pianino, perché può darsi poi che il futuro che tu prepari sia un futuro molto più lontano di quello che ti eri immaginato. A me torna sempre in mente Zoff, che all'età più o meno di Buffon adesso, no, forse per l'età 2-3 anni in più, sembrò ai tempi dell'Argentina, dunque al tempo dell'Argentina Zoff 42-78 aveva 36 anni, no, aveva 3 anni più di Buffon adesso. Comunque sembrò arrivato, insomma, di colpo, abbastanza a capolinea o quasi, e invece poi fece altre 4 stagioni culminate nel Mondiale di Spagna. Io ci andrei pianino. Su Chiellini il discorso è diverso. Su Chiellini mi pare di capire, mi pare, seguendo le cronache che arrivano anche da Torino, mi pare di capire che la stessa Juventus si sta cominciando a porre qualche problema, qualche dubbio. Vanni da Cuneo scrive: ma non può telefonare a Suarez tutti i giorni? Insomma, Vanni, io non... è una persona anche di una certa età, classe gloriosa 1935, perché stiamo parlando di... a memoria ne dico due soli, uno è Luisito Suarez e l'altro era Omar Sivori, insomma parliamo di due tra i più grandi di tutti i tempi, però tutti i giorni no, magari un pochino più spesso Luisito sì, con grande piacere, credo anche con grande divertimento, ma anche con grande, no, non solo divertimento, attenzione da parte di chi lo ascolta. Carlos è in linea da Milano, c'è la S, Carlos? Sì, sì Carlos, molto bene. Buongiorno, grazie perché a volte tutti i giorni ci permetti di commentare e fare i sogni all'allenatore. Sono tifoso juventino. Sì. Sono un po' preoccupato perché adesso che le grandi squadre come il Napoli, il Milan, no? L'Inter cominciano a fare la Champions, secondo me, e volevo sapere un suo parere, questo era il momento della Juve dove dovevo allungare. Secondo me se non allunga adesso, un po' preoccupato, quando l'Inter, il Milan, Napoli si trovano in forma, non più avanti al campionato, secondo me non so se riesce a sì. Giocare alla pari. Sì, è una buona osservazione, Carlos, infatti, e non a caso la Juventus è abbastanza delusa di non essere riuscita a realizzare la fuga, vincendo almeno una di queste due partite che ha pareggiato. Io credo più quella del Bologna susciti rimpianti, no? Perché poi a Catania da un certo punto di vista è andata anche bene, ha avuto un sacco di occasioni che ha sbagliato, però neanche subite tante, e in fondo l'unico gol che ha segnato può ringraziare Andukar, perché Krasic comunque che la vera palla gol l'ha calciata alta, insomma quella l'aveva comunque messa assolutamente in bocca al portiere, quindi credo che il rimpianto principale riguardi la partita di Bologna. È vero però, rispetto a quello che lei dice, che la Juventus andando avanti non avrà, soprattutto a primavera, non avrà il carico delle coppe, e quindi questa è la fase in cui, andando avanti con i gironi, le rivali spenderanno certamente molto di più di quanto lo spenderà la Juve. Poi ci sarà un momento di parità di trattamento, diciamo, che più o meno sarà per dicembre, quel poco di dicembre che si gioca, gennaio e quasi tutto febbraio, e poi chi sarà sopravvissuto alla selezione dei gironi iniziali dovrà ricominciare a spendere molte più energie di quante invece non spenderà la Juventus. Una mail che è arrivata nei giorni scorsi da Josef Kaspar: ci sono un giornalista nato a Praga, vivrò tanti anni in Italia, ascolto sempre la vostra trasmissione, apprezzo eccetera eccetera, e le do qualche ragguaglio su questa città che lei ha detto di non sapere nemmeno dove si trova, ecco, riconfermo. Pilsen è nota meglio col suo nome tedesco Pilsen, dove viene prodotta la famosa birra imitata in tutto il mondo. I suoi 170.000 abitanti lavorano anche nella fabbrica Skoda, non automobili ma centrali nucleari, tram, locomotive, città di discrete tradizioni con una cattedrale gotica della fine del 300. La nostra non è una grande squadra, ha molto entusiasmo ma tecnicamente è scarsa. Il calcio ceco vive una crisi profonda da cui sarà molto difficile sollevarsi per tante e serie ragioni. Per fortuna, vivendo da tanti anni in Italia, sono anche un vecchio tifoso del Milan. Beh, vabbè, Kosef, per stasera comunque sia, se la cava. Cristian ha chiamato da Torino, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo assolutamente contraddirla su quello che ha riferito ieri su Calciopoli, anzi su Farsopoli. Allora, uno, fino a prova contraria, come ha detto lei ieri, no? I testimoni a cui l'accusa si è aggrappata probabilmente verranno processati per falsa testimonianza. E là? E questa da dove le risulta? Le risulta? Beh, se la accorgerà, vedrà. Lei non segue il processo come l'ho seguito io. I capi di imputazione sono caduti perché, per esempio, i sorteggi erano dove regolari. Dove sono caduti, Christian? I sorteggi erano regolari. Nucini, non ne parliamo neanche. I sorteggi erano regolari? No, di Nucini non ne parliamo neanche. Ma no, ma non parliamo di Nucini, parliamo di sorteggi regolari. Parliamo di Zeman, di Baldini, di Dalcin, che erano tutti i cavalli di Troia. Cosa c'entra Dalcin? Scusi, Christian, abbia pazienza. Lei sta diffamando delle persone che non c'entrano. Dalcin proprio non cosa. Quindi prima che questo povero programma venga massacrato da mitomani che si spacciano per perché questo signore, mi sta informando adesso la centralinista, aveva detto di voler parlare di tutt'altro argomento. Allora, se possiamo benissimo parlare del processo di Napoli e della farsa, no? Che ci si sta tentando di ricostruire intorno, come lei ha detto prima, e questo va bene, però attenzione alla diffamazione di persone che in questo processo non sono minimamente coinvolte. Io sono in corso ieri in un errore tecnico, soltanto tecnico, non di opinione, sia ben chiaro, e oggi ho subito fatto un'errata corrige, ma insomma trattasi di materia da maneggiare con una certa cura, e quindi per cortesia astenersi mitomani. Antonio, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io ho chiamato dopo la prima partita di campionato Napoli-Cesena, dove si era visto un grande Napoli, facendo una domanda al dottor Genta, chiedendogli: secondo lei cosa ci azzeccano in questa squadra Aronica e Cannavaro? Perché vedevo un Napoli fortissimo, l'unica due pecche secondo me erano in difesa lì, erano, però mi hanno leggermente smentito questi due facendo delle prestazioni eccellenti. Però secondo me, essendo anche un gran tifoso del Napoli, ho sentito prima un ascoltatore chiedendo che magari la prospettiva nazionale per questi due giocatori, secondo me non me ne vogliano né Aronica né Cannavaro, ma non né in cielo né in terra, perché comunque secondo me l'unico neo che ha il Napoli, nonostante le buone prestazioni di questi giorni, l'unico neo che ha quella squadra è proprio là dietro là, cioè con il Cannavaro che ti segue attentamente il calcio, non è un difensore né da nazionale, secondo me, neanche da Napoli. Volevo un suo parere su questo. Ma il mio parere è che Kroll era più forte, se la mettiamo così, Kroll era più forte, ma non mi sembra la difesa il problema del Napoli. Cioè, mi sembra che il Napoli di problemi veri in realtà non ne abbia. Poi se adesso il tifoso napoletano comincia a eccepire Cannavaro e soprattutto su Aronica, non invidio Mazzarri De Laurentiis, se non invidio, perché vuol dire che questa crescita non è stata soltanto netta, ma per certi tifosi doveva essere ancora di più, e allora non so come dire, cominciamo male, ecco, questo per il futuro del Napoli, che secondo me dovrebbe vivere con tutt'altra serenità questa fase, parlo di questi tifosi eccessivi, intendiamoci, questa fase di crescita che è indubitabile invece che è oggettiva. Torniamo in onda con la rubrica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 28 settembre 1971. Il Bologna supera il primo turno dell'edizione numero 1 della Coppa UEFA, cogliendo una vittoria prestigiosa sul campo dell'Anderlecht. Dopo aver pareggiato 1-1 al Dallara, in Belgio gli emiliani si impongono per 2-0, con reti di Savoldi e Rizzo. Viene così vendicata, a distanza di 7 anni, l'eliminazione subita dalla formazione belga, peraltro al sorteggio, nell'unica esperienza del Bologna in Coppa dei Campioni. Ma il cammino degli emiliani in UEFA durerà solo un altro turno. A sbarrare la strada, la formazione allenata da Edmondo Fabbri, saranno gli jugoslavi dello Zelenikar. Oggi, mi segnala Franco Piattanide invece, compie 120 anni, compie anche, quindi un'altra data, compie 120 anni il Peñarol, che è uno dei più prestigiosi club del mondo. Il Peñarol di Montevideo, che ha questo nome in omaggio alla città di Pinerolo, perché il Bario, questo Bario antico si agglomerò intorno ad antichi possedimenti di un pinerolese che si chiamava Giovanni Battista Crosa e che poi arrivò in Uruguay a fine del Settecento e divenne un importante proprietario terriero. Ha avuto tra le sue stelle giocatori come Schiaffino, e basterebbe quello, ma insomma Obdulio Varela, uno dei simboli del mondiale uruguaiano del 50 in Brasile, Ghigia, Chilaver, Forlan adesso, Pato Aguilera, che tra l'altro è in pessime condizioni di salute, che a Genova, in parte anche a Torino, ma a Genova soprattutto ricordano con grande affetto. Il Peñarol ha vinto la bellezza di 48 campionati d'Uruguay, 5 Coppe Libertadores e 3 intercontinentali. Insomma, la FIFA l'ha premiato 2 anni fa come miglior squadra sudamericana del XX secolo, insomma, non proprio uno scherzo. Quando vogliono, scrive Andrea Torino, li beccano questi ultra prima di entrare allo stadio. Certo, quando vogliono e appunto quando magari sono segnalati per tempo. D'altra parte i tifosi cecoslovacchi, scrive un altro Andrea, ma da Milano stavolta, sono la nuova feccia neonazista che arriva dall'est d'Europa. Purtroppo non l'unica, le aggiungo, perché i polacchi... anche dalla Polonia abbiamo brutte risultanze, insomma, no? Se parliamo di tifoserie organizzate, se parliamo soprattutto di gruppi neonazisti. Massimo ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, sentire un suo parere. Dica. Io sono abbonato all'Inter da 25 anni ininterrottamente. Sì. E quindi qualcosa di calcio mastico. Io sono convinto, l'ho sentito il suo parere, che questi due giocatori sono mediocri, tali saranno tutta la vita, anche se sono giovani, e sono Alvarez e Ranocchia. Volevo sentire il suo parere riguardo questi due giocatori, che li considero tali. Non avendo la fortuna di essere abbonato all'Inter a 25 anni, sono un po' meno documentato su Ranocchia e su, chi era l'altro, Alvarez, ok. Da quel poco che ho visto di Alvarez, sinceramente non saprei ricavare... sensazioni più precise. Da Ranocchia mi sembra che lei esageri un pochino, nel senso che ricordavo Kroll prima con un tifoso napoletano, nemmeno Ranocchia è Kroll, però insomma che ci si possa lavorare per farlo maturare, farlo diventare un discreto difensore centrale, credo che insomma ci si possa perlomeno provare. Poi che abbia enormi margini di crescita, direi ragionevolmente no. Massimo, grazie. Andiamo a Napoli, da Stefano, buongiorno. Garanzini, buon pomeriggio. Dica, buongiorno. Buongiorno, ascolti, a parte i complimenti per la trasmissione, che poi non vengono mai eseguite, le faccio io di persona. Ecco, io volevo chiedere, c'è quel Napoli da tanti anni, sono stato sui ritiri anche l'anno scorso, 30 secondi e poi stacco la chiamata. Io ho seguito l'anno scorso al Folgari, sono arrivati degli inviati di Sky che incitavano dei gruppi di tifosi a incitare Cannavaro non si tocca. Ma dico io sono stato l'unico in quel ritiro, cioè a parlare male di Cannavaro, perché Cannavaro, se ben si ricorda, è stato al campionato di ritorno della Serie A e ha giocato ha giocato un pochettino meglio della mente, no? Stefano, io mi ricordo poco, ma lei ci sta raccontando che sono arrivati gli invieti di Sky che come dire, intonavano o comunque suggerivano i cori ai tifosi? Sì, le giuro sui figli, guardi, erano degli inviati di Sky, hanno beccato un gruppo di ragazzi napoletani e dicevano: ragazzi, dovete urlare, Cannavaro non si tocca, perché il contratto non è rinnovato, no? Ah, vabbè, Stefano, ma oggi è la giornata, lei è molto simpatico, poi con quell'accento, guardi, io le perdono tutto, però ho l'impressione che oggi sia arrivano ogni tanto, no? Le giornate vagamente mitomani, questa temo che sia una di quelle, su, con tutta la simpatia possibile, a differenza che con lo scienziato precedente, però adesso sinceramente, no. Vediamo di no, dai, davvero, grazie. Vediamo se troviamo un altro ascoltatore, e se no, sentiamo un attimo che cosa Mancini, perché la parte Mancini-Tevez è una, però il City ieri sera, adesso, in buona sostanza, ha subito una sconfitta dura, perché adesso il Manchester ha un punto solo in classifica, il Bayern 6 e il Napoli ne ha 4, insomma, se il Manchester City non si qualifica per almeno per la fase eliminazione diretta di Champions, cioè, a quel punto deve davvero vincere il campionato, perché poi gli sceicchi di quattrini ne cacciano a dismisura, ma hanno poi anche il loro carattere. Sentiamo Mancini. Penso che abbiamo iniziato la partita benissimo per mezz'ora, abbiamo avuto anche occasioni, forse c'era anche qualche rigore, ma qua è difficile a Monaco contro il Bayern. Poi dopo abbiamo subito il primo gol, ma il secondo che ci ha un po' tagliato le gambe. Credo che loro in questo momento siano più forti di noi, e magari in 3-4 mesi possiamo recuperare, abbiamo ancora 4 partite, credo che abbiamo possibilità di andare avanti ancora. Credo che ci possa stare perdere contro il Bayern Monaco, anche se la cosa che mi dispiace è che stavamo giocando bene. Qualche rigore, ha detto Mancini, c'era qualche rigore. Sì, quando... È ovvio che quando per... Ma lui era alterato per questa storia di Tevez, infatti poi mi spiace non poter disporre di questo frammento di intervista, magari lo ascolteremo domani, però è stato veramente duro. Adesso tra noi è finita, ha detto, se un giocatore viene a Manchester City, guadagna tanti soldi e poi si rifiuta di giocare con me, ha chiuso, Tevez non potrà più giocare con noi. Affronterò l'argomento con i dirigenti e con il presidente, toccherà a lui la decisione finale, ma io non posso accettare che un mio calciatore rifiuti di entrare in campo e quindi di aiutare la squadra. Marcello da Bologna, buongiorno. Salve, io volevo intervenire sul Bologna, sulla squadra del Bologna, che secondo me è abbastanza ridicola, perché stiamo giocando malissimo, e volevo chiedere a lei un parere sull'allenatore, che secondo me è veramente scarso, perché non abbiamo un gioco e prendiamo un sacco di gol, e poi abbiamo pareggiato con la Juve che aveva un giocatore in meno, quindi secondo me è da cazzare a pedate questa allenatura, tanto per stare leggeri e tanto soprattutto per continuare, no, come dire, la galleria di oggi. Io non so, ma ho come l'impressione che qualcuno di questi, cioè, è come se qualcuno di questi ciechi dei pullman, no? Leggermente su di giri, anziché la strada di San Siro, che poi è qua a un chilometro poco più dalla sede di Radio 24 del Sole 24 Ore, avesse infilato questo portone oggi. Non, sinceramente non riesco a capire. Andrà meglio domani. Per oggi grazie a Mauro De Angeli, che ha curato la regia della parte tecnica, grazie a Franco Piantanida, grazie della vostra pazienza e soprattutto della vostra comprensione per qualche caso umano di troppo, e buon pomeriggio a tutti.